capito sul tetto e nessuno mi ha mai detto niente, mai, proprio niente, nessuna lamentela, zero, e quella è la cosa migliore. Vabbè, io praticamente per accedere sul tetto devo entrare nel vano ascensore, c'è una porticina dove c'è tutto il quadro di comandi dell'ascensore, ci sono le funi eccetera, devo attraversare lì, poi c'è una scala sulla parete, devo aprire una finestrina e poi sali sul tetto, devi salire vicino a un bordo che ci sono le tegole, praticamente abbiamo un tetto a 4 spioventi e la parte centrale invece è, diciamo, è ripiana, no? C'è il piano impermeabilizzato, lì al centro del tetto c'è una casetta che era un vecchio vaso d'espansione dell'impianto di riscaldamento che adesso non è più in uso, però lì sono attaccate da una parte le antenne TV, dall'altra parte non c'era niente, mi sono attaccato io, e per cui questa casettina sopra è un po' sopraelevata e da lì vedo tutto, addirittura ci sono il palazzo della Telecom che ha tutti quei ripetitori grandi eccetera, e dove la sera si riempiono, diventano tutti neri perché ci vanno quegli uccelli a stormi interi, no? E se ne vanno tutti lì, invece nell'antenna dove ho io pensavo che mi creasse problemi, grazie a Dio né cornacchie né uccelli, non ci va niente, quindi nessuno mi ha detto mai niente, dovrebbe essere tutto in regola. Anche non va il radiale, se no li vedevi facendo le danze. Le cornacchie, mi. Antonio, ti dico che abbiamo parlato insieme poco fa con Carlo. Il versamento va intestato a Amateur Radio Society, via Asmara 3, 07100, no, 87100 Cosenza. Ci sono 15 euro che va sia la quota sociale, sia l'assicurazione delle antenne per tutto il 2021, e poi c'è la sigla SWPL, la mia sigla, nome, cognome e diritto. Ho capito. Secondo me già la faccio, perché va bene, interessante. Vabbè, non è il caso, qua non fate nessun danno, perché. Però, secondo me, in altri condomini l'avrei fatta. Io sotto c'ho gente, capito? Sotto io c'ho nella finestra, può cadere tranquillamente. Anzi, una volta è caduta, però meno male, è rimasta appoggiata a un fianco, non è andata giù. Ma che te l'hai costruita tu però? Sì, questa l'ho costruita io. Siccome una parte è in legno, una parte di giù è in legno, e sicuramente si è un po' marcita dopo 2 anni. Adesso gliel'ho rimessa nuovo. Forse avrebbe fatta in resina anche la parte più bassa, quella che è innesta nel tubo, dai. L'ho fatto un po' robusta. Ma perché non ti metti un'altra antenna un po' più performante? E qui puoi mettere solo una game master originale, basta, non posso mettere altro qui. Ah, così è. Perché è attaccata al muro, i radiali non li puoi mettere, perché sono a un palmo dal muro. Già lo so, mi pare che l'ho anche vista piazzata. Sì, mi sembra, me l'avevi detto. Avanti Carlo. La mia praticamente dovendo cadere cade in centro al tetto, quindi non va né in strada in tutti gli altri lati ci sono gli spioventi del tetto, la mia è messa nella parte centrale, dovendo cadere cade e va sul piano di calpestio che c'è, quindi lassù non c'è nessuno e quindi può far male a qualche cornacchia e se gli cade sopra, solo quello può accadere. Magari ammazzare un po' i cornacchi. Sì, adesso invece questa che c'hai adesso, il dipolo, come fai a tenerlo lontano dal palo? C'hai qualche curva, qualche T? Sì, praticamente questa antenna l'avevo acquistata e l'ho tenuta in garage almeno forse 20 anni. Nuova, non l'avevo mai usata, la volevo usare nell'altra casa che avevo, poi per un motivo o per l'altro non sono riuscita mai a piazzarla e l'avevo tenuta lì. E solo, diciamo, quest'estate mettendo a posto me la sono ritrovata ancora dentro il cielo, fan eccetera, l'ho tirata fuori, ho detto beh, mi sono rotto le scatole, adesso mi ricompro una radio e mi faccio un piccolo impianto, E niente, quindi l'ho piazzata lì, ho preso il cavo nuovo, tutto nuovo, perché non avevo più niente, io ero più di 25 anni, 30 anni forse, che non modulavo più, capito? Che prima io abitavo in un altro comune, qua a Sassari sono venuto dopo e adesso così, ormai qua ci vivo dal 93, però prima lavoravo fuori, facevo un altro lavoro, ero sempre in giro, adesso che mi sono un pochettino stabilizzato ho deciso di rifarmi l'impianto, però penso di non farla nemmeno l'assicurazione, sentendo voi, perché dovendo cadere, anche mettendo un'antenna più grande, rimane là sul piano di calpestio. Beh, se non hai problemi, dai. Non c'è bisogno, sì. No, questo è poi un servizio, diciamo, aggiuntivo. Cioè tu ti iscrivi a questo gruppo di radioamatori e in omaggio c'è per questa circolazione, dai. È una cosa in più. No, va bene, chissà se si potrebbe fare una cosa del genere, metterne una di quelle antenne che c'hai tu adesso, una orizzontale e una verticale, e collegarle assieme, e poi un rotore, praticamente un motore che ti permette di girarla e orientarla dove vuoi tu. Questa non, io non ho il rotore d'antenna, però diciamo è staccata dal palo, e nella confezione c'era già il distacco, no, dal palo, praticamente c'è un supporto che va agganciato al palo e tu molli quello e ruoti l'antenna, quindi è facile, cioè l'antenna tu non la tocchi da come è messa, devi solo mollare i bulloncini e la giri in verticale o in orizzontale, per cui io che ho facilità ad accedere sul tetto, per dire un domani la voglio cambiare di polarizzazione, salgo proprio 5 minuti, metto un po' di CRC sui bulloncini, li mollo un attimo, giro l'antenna, stringo e sono a posto, capito? No, dico, volendo usare come direttiva, gli aggiungeresti un rotore sotto, comandato da giù, l'ascolteresti di DX in una maniera impressionante, cioè mettendo le due, una orizzontale e una verticale, e farle andare assieme se possibile, o una alla volta. Però utilizzare anche la parte direttiva, cioè in orizzontale. Guarda, secondo me è meglio in verticale, perché almeno senti tutti, non devi stare, uno non senti niente, l'altro lo senti fortissimo. Invece in verticale c'hai una l'ampietta e senti tutti. Infatti una per DX è meglio in orizzontale, che sei più selettivo. Appunti verso la spagna e vai dritto come un fuso. Ehi, guarda cosa ti dico, per il DX io già lo so cosa ci vuole, devi avere l'arma da guerra, devi avere, quando tu schiacci la portante è sicuro che ti senti al 100%. Ehi, ma in direttiva ti battono anche meno watt, ti battono addirittura in direttiva, e poi più silenziosa, non senti gente che, da tutte le parti che ti chiama. Ah vabbè, quello sì, però è sempre quella la motivazione, quando tu devi fare DX, è tranquillo che con quello passi, è come se passi, cioè io sono arrivato io a fondo scala in Sicilia, è una cosa impressionante. Sì, io l'anno scorso ho collegato Pantelleria, diceva, che è lontanissima, dice che è raro anche che arrivi qua in Sardegna, l'anno scorso addirittura l'ho collegato due volte, conta che io, vabbè, cominci tu con un po' di vitamine, se no direttamente mai non mi avrebbe ascoltato, però ce l'ho fatta anch'io, dai, nel mio piccolo. Fiat, che quando aprivo era una cosa micidiale, è tutta un'altra storia. Avanti Carlo, anche a me sta venendo un po' di abbiocco, Io quando ce l'avevo puntata così in direttiva, in orizzontale, sono andato in SSB, questa radio c'ha MFM SSB, dove lì mi fa uscire con un pochettino più di watt, c'era una bella propagazione, ho collegato le Canarie, gli Stati Uniti, l'Indonesia, in Italia diverse località, dal nord al centro Italia, al sud Italia, Punta Raisi, Sicilia, Alberobello, in Puglia, tutte quelle zone lì, in Piemonte, in Liguria, comunque andava, cioè se tu incontri un'antenna con la stessa polarizzazione, guarda, ad altre antenne con la direttiva gli dai 10-0. E infatti quello che spiegavo a Antonio, la direttiva è un altro mondo, cioè tu in verticale difficilmente ci arriveresti in Indonesia, Stati Uniti, invece vedi, in direttiva lui ci è arrivato con pochissimi watt addirittura. Esatto, esatto, però da quando poi l'ho girata in locale non senti tutti, capito? E poi alla fine l'unica cosa sarebbe quella, avere un bel rotore d'antenna che ti permette, quando ne hai voglia, la giri, la metti puntata e allora sì, e poi la rimetti in verticale per il traffico locale, capito? E anche quella è l'idea, c'è un rotore che la giri anche dall'orizzontale al verticale. E in più in base diciamo ai punti cardinali anche. Sì, quello sarebbe l'ideale. Con un'unica antenna farete tutto. Eh sì, solo che diciamo che ho avuto tutta quanta assieme la spesa adesso di questo impiantino nuovo, modesto, quindi però è una cosa che potrebbe anche interessarmi, perché eventualmente potrei anche metterne due di antenne, capito? Metterne una fissa e una così, puntata così, con un piccolo rotore che mi permette di fare nord, sud, ovest ed est, capito? Io ce l'avevo un rotore in scatola, mai utilizzato, non lo trovo più qui a casa dei miei suoceri, agli punti, perché un paio di direttive una volta le abbiamo piazzate, però senza rotore, quello non è stato mai utilizzato, non l'ho più trovato, è ancora in scatola, chissà dov'è. Sicuramente nascosto nei meandri di qualche scantinato o garage, quelle cose vanno a finire così, poi magari quando non lo cerchi più magari spunterà fuori. Se non ce l'ha venduto qualcuno o buttato, non lo so, guarda, non so che fine abbia fatto, mai usato, nuovo in scatola, aveva dovuto diciamo pilotare una quattro elementi, l'avevo preso, invece poi non è stato mai utilizzato. Capito, non ho idea di quanto possa costare anche un rotore piccolino, no? Da applicare a questa antenna che ho. Quando ho tempo magari su internet ci frugo un po' e vedo cosa eventualmente si può fare, anche se non ho mai capito, cioè tu lo devi piazzare esterno sull'antenna e poi il collegamento a terra mi sa che va con cavo elettrico, o sbaglio? Sì, questo era a cavo elettrico. Tu c'è lo strumento che va configurato in base ai punti cardinali, dai, e tu ruotando laggiù sai già dove stai puntando la tua antenna, però il mio funzionava col cavo. Allora io vi saluto perché mi gioco strumenti, buonanotte a tutti, ce la sentiamo domani, ciao. Infatti, anche io un po' di addio che mi sta venendo anche a me un po' di sonno, poi quando ti sento svegliare sveglio anch'io. Buonanotte allora Antonio, grazie per la compagnia, alle prossimine, avanti Carlo per i saluti. Ma buonanotte Antonio, grazie di questo, ci sentiamo alle prossime, e anche noi adesso chiudiamo, io mi sa che mi guardo un po' di TV adesso, mi stavo guardando una serie su Netflix, mi guardo un paio di puntate e poi anche io me ne vado a letto. Gappa, dai, buonanotte a tutti, grazie per la compagnia, ciao. Ciao, buonanotte, sì, stavano i pezzi dei rotori, ce ne sono da 180, c'è anche quelle per parabole. Questo è per esempio per radioamatore, poi dipende dalla portata, questa costa 250 euro, questa per parabola costa 94 euro, insomma ce ne sono di tutti i prezzi, dai. E magari anche se si trova qualcosa di buono di usato, anche quella può essere un'opportunità da valutare, capito? Perché a volte trovi magari qualcuno che ne ha uno buono, magari vuol passare a uno più performante, perché magari deve mettere delle antenne più pesanti, eccetera. Io se trovo qualcosa di piccolo, di leggero per quell'antenna lì, magari si possono fare anche un pensierino, ecco, su un piccolo rotore con lo strumentino giù, e magari riesco sicuramente a ottenere buoni risultati, soprattutto con i Dix. Beh, sicuramente è un altro mondo. Sì, però è che ti trovi qualche usato, si può trovare qualcuno che ha dismesso, magari, insomma, qualcosa si trova. Devi seguire male questi mercatini dei radioamatori, qualcosa si trova, dai. Ti saluto anch'io, allora, una buona notte, grazie per la compagnia, anche a te, e alle sentirci alle prossime, ok Carlo? Ciao Franco, buonanotte, grazie anche a te della compagnia del QSO, ci sentiamo alle prossimine, ci aggiorniamo, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao Franco, ciao Carlo e ciao Antonio, dai, io ho finito adesso, ora mi si goccu, ciao domani. E beh, ti sei chiamato, dai. Sì, io mi ci metto nel sistema le cose. Non avevo avviato e poi sono riuscito a sistemare la, per quanto riguarda la scheda video. E però praticamente non mi dava la luminosità bassa. Non regolavo da tastiera niente, allora era anche un problema di tastiera. Adesso ho risolto. Stavano sistema operativo. E niente, dai, andava. Buonanotte domani, ciao Fra. Domani mi sveglio un anno in più, ciao. Ehi, a che ora sei nato? Sono errore, aspetta, forse alle 3, 3 e mezza. Alle 3 del mattino, ok, io l'ho più filato alle 5 del mattino, io non mi ricordo, ero troppo piccolo. Dai, allora se capita domani ti facciamo gli auguri, dai, se capita, ok? Guarda, se mi sveglio domani sono 47, sono pazienza. Se mi stai raggiungendo, Piano piano sì. Dopo ti supero, domani. vabbè, dai. Guarda, allora divertiti domani, festeggerete sicuramente, dai. Ehi, qualcosa in famiglia faccio, dai, io la mia compagna, la figlia, niente di che, poi c'è la mia madre. Proprio una cosa, due cazzatine così, non ho più voglia di assillarmi fuori panini, tramezzini, mi interessa. Ci sentiamo domani, Fra. Ciao, buonanotte e niente. E buona giornata per domani, ciao. Però anche noi stiamo facendo così comunque. Pochi intimi, ormai sono finiti i periodi di fare queste cose varie. Dai, buonanotte anche a te. Ciao ciao. Auguri per domani, io ne ho una decina più di te, quindi auguroni, buonanotte. Ehi, vabbè, interessante raccontarlo. Ciao Carlo, ciao. Buonanotte. Ciao Luca, buon tutto. E beh, pompo, io sono ancora qua, non ho finito il computer. Aspetta un secondo. Non ho capito cosa hai detto, perché ho ascoltato quegli altri, dimmi tutto. Ho detto che il computer non ha finito ancora, sta andando. E io così, Laura. Ehi, ma sono usato Manzano, ma ho detto che dovevo vincere io, e infatti così è stato, sto vincendo io. Ma io così sono contento, saluto a tutti, e quelli che sono su questo canale. Che hanno chiuso tutti, sono andati a fare la nanna. Ehi, meglio, vabbè, anche proprio per quello, saluto comunque chi fa la nanna e chi oltre, quindi. Davvero? Davvero, hai visto? Eh? Come si dice? Davvero? Hai visto che ho spiegato due palati? Hai visto? 300 euro spesso, quindi ho fatto culo, a un certo punto ho fatto quello che dovevo fare, ho perso il resto, ma ho recuperato l'altro, quindi a un certo punto mi sta bene così, basta e avanza, sono contento, la verità. Te li pagati? 300 euro tutti e due. A parte quello, non ho capito quello, cioè mi hai scritto 200 euro, non ho capito quello ti, in pratica ti, cioè, vuol dire, 200 euro, boh. Certo, sono un regalo, ti do 200 euro, capito? Ah, stato Deco. Ma perfetto. Beh, certo che è perfetto, secondo te, quando arrivo a mese, come può essere, secondo te? A parte l'altro, vabbè, ma comunque sia, lo sai che è così. Ma cosa ne so io? Di solito a te radio sono scacciabilitati, hanno aperto quello, hanno aperto quell'altro, capito? È quello. Oh, c'è una nuova la foto. Ma qua a Sassari l'hai comprata, o fuori? No, l'ho preso a Sassari in realtà, non l'ho preso fuori. Va bene allora, ci andava. Quindi figurati tu. E anche l'altro, addirittura. Mi hai visto la foto, quello. La macchina, quello è bello veramente. Per uguale è stato un deco. Non cambia nulla, la verità. Meglio così. È fatto un affare sicuramente. C'è un affare. Io a fare non riesco a farne, via. Vabbè. Ci vuole anche fortuna su quelle cose. Gli affari. Ma prima ho messo un po' bene sta cosa. Ecco qua. E così va bene, va bene. Sa tu te cominciamo voi, è vero, va poi cresce bene. Però ciò c'è spazio. Sono barrasoni, Quello se non sbaglio funziona a coso, a 220. Sì, bravo, infatti. Ma funziona anche a 12? Anche, sì. Nel caso si rompe l'alimentatore interno, lo puoi adoperare a 12 volt. Ok. Aggiungabile. E lo vedi un po' in giro? Stasera sì, la verità sì. Ero in giro. Sono entrato quasi un'ora fa. Comunque sia. Vabbè. Ho fatto almeno il giretto, almeno quello. L'altro giorno qua sono stato stressato per questa storia qua, del coso, di questa storia qua, di quello che è successo, no? A un certo punto mi stavo prendendo proprio al cuore, non va bene. Mi ha detto il medico, dice, lascia perdere, dice, quello dice, ti voleva foto e mi ha detto, quindi lascia perdere, mi ha detto. Non ho capito di che cosa? Di che cosa ti lascia perdere? Non ho capito, Antone. Di quello che stai parlando l'altro giorno. Aspetta. Di quello stavo parlando l'altro giorno, ricordi tu e tu hai detto, no? Se sbagliato su lei non è così, no, gli ho detto guarda te, detto, a un certo punto non è come pensi tu, quindi a volte le persone cambiano, il discorso è quello, quindi cioè, a un certo punto ho detto ho fatto quello che volevo fare io, l'ho fatto giusto, non per altro, se no mai mi sarei preso, avevo avuto una cosa del genere, hai capito, di farlo una cazzata così. L'ho fatta perché era indispensabile, mai me l'avrei pensato neanche io, figurati tu. Ma comunque sia. Comunque sia adesso. Vabbè. Vaffanculo. Basta, avanza. Ognuno le cose sue, diceva quella. Il medico cosa ti ha detto il medico? Non ho capito. Poco fa ha detto, il medico mi ha detto? Il medico mi ha detto, in pratica che c'ho il coso. Di questo cazzo di merda di coso, cazzo di tosse, cazzo. Ma fanculo, cazzo, guarda. Ce l'ho quasi un mese e mezzo, ce l'ho la verità. Fanculo, va. Meno male, ma se piano piano sto smaltendo, guarda la verità, perché non è possibile qua. E Simone è peggio, Simone è veramente peggio. Si è fatto il vaccino, peggio di prima. Cosa c'hai la bronchite? Non chiedono, non lo so, ma comunque si muova proprio con la tosse, con la febbre, cosa del genere, capito? E si è fatto ieri, la verità, il vaccino per l'influenza, figurati tu, è peggio di essere normale, capito? Non si muove manco a muovere le braccia, figurati tu. Si fa tutto loro di cazzo del vaccino, cazzo, quello normale, cazzo, siamo fregati davvero, per cazzo. Picchia, vabbè, anche a me il braccio mi fa male. Più casino è quello, hai capito? È veramente un casino questo quattro di vaccino. Speriamo che non sia così, ma io questo vaccino Simone non glielo faccio fare, assolutamente no. Se la piglia in culo, ha fatto l'antinfluenzale, gli ha fatto male, quindi a un certo punto è stato anche in culo il vaccino, quello che è, non glielo faccio fare proprio per niente, a me non mi interessa proprio nulla, voglio che viva, non è che voglio che ci rimanga secca a un certo punto, scusa. Beh certo, se ci rimane secca poi un casino. Appunto per quello, siccome c'è ho avuto problemi cazzo con la differenziale, figurati tu, cosa sai il tuo vaccino, fa 15 giorni, vai, dai capelli, non gli faccio proprio fare nulla, se lo faccio io, non me ne frega nulla, se ci rimango secco ci rimango io, ma a rimanerci fuori. Molta lì assolutamente no, non ci penso nemmeno, non mi interessa proprio niente. Beh, da lì alla fine non è che sta bene, poi è magra, un casino. È un casino, vabbè, mamma mia come sto. Infatti è così. Come sto scendo con questo decco? Sto scendo bene, sì. Sei contento? Sì, mi senti bene, tranquillo, non c'è niente di strano. Questo, sto usando il Saturn Echo, normale, come è nato. Benissimo, così bene non ti ho mai sentito. Ok, visto, sono contento anch'io, la verità. Speriamo che lo anch'io, dopo che faccio la terza dose del Saturn Echo, dicevo quello. A un certo punto, se voglio prima, vabbè, è stato un vuol dire che andrà mia sorella, se la mia in culo. E di certo ci saranno i cover che vanno in giro a cercare apparati, cazzo, questo è poco ma sicuro. Ci vanno a me la luce, non voglio nessuno, io in casa mi ha detto, se dovessi crepare tu, quello lui dice, Antonio che mi rimane, dice, l'appartamento, eccetera, eccetera, eccetera. Per il resto, non piglia niente nessuno, mi ha detto. Beh, va a finire tutto lì, no? Anche se muore tuo fratello. Se muori tu, va a finire tutto lì, perché rimane l'unica. Esatto, sì, infatti. Rimane tutto a lei e a Simona, non per altro. Simona non vede niente, quindi non ci sono più i maniaci che vanno a controllare, cazzo, quando sono morti, cazzo, mi serve quello, mi serve quell'altro. Allora ti dico, io lo può avere tutto quello che vuoi, soldi, macchine, tanto quando muore non si porta niente appresso. Io glielo che non ho avuto niente appresso, no, ci mancherebbe. Ma gli altri, cazzo, già, sai che ci sono gli avvoltoi, no? Non sei da un sacco di tempo, quindi a un certo punto ha detto che in pratica si vola e Giovanna non vanno niente a nessuno, rimangono in pratica la roba a loro, mi ha detto. Se lo tengono così, com'è? Tutto lì. Andare. Forse aspetta un secondo, voglio fare una prova. No, non posso fare proprio niente. È staccato il gavetto. Aspetta un secondo che faccio un... attacco il gavetto, cioè il gavetto mi dà il controllo, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Dammi il controllo. Esce benissimo. Ok, la sto pompando. Sono 80, quasi 90 watt, so. Esce benissimo. Costato un ecco, visto? È perfetto questo apparato. Non ho toccato, non lo voglio neanche toccare addirittura. Ho lasciato così com'era, vergine. È nuovo, Nuovo, nuovo, è vero. Bene, così. Infatti quando mi hai scritto quel messaggio, non pensavo che magari fossi pensando a questo, ma fossi pensando all'altro, quel video che ti ho mandato, quello spagnolo, il discorso è quello, capito? Ah, per quello. Ok, ok, allora siamo a posto, vabbè. Sempre qua. Oh Antonella, io ti saluto che mi seguo drummenti. Sono da stamattina alle 4 sveglio. Una cosa e l'altra, tra di campagna, qua e là. Mi sa che pure c'è un po' di tosse. Ok, va bene, dai, ci stiamo al limite ormai, là. Appena sei tranquillo. Dove, va bene? Eia, ciao, buon po' buonanotte. Saluta la Simona, ciao. Eia, tanto ciao, buonanotte anche a te.